Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:15, buon pomeriggio, buona domenica da Rita Micoli. In questa breve edizione del GR in apertura la cronaca con un complesso intervento in montagna per trovare un escursionista e due casi di violenza giovanile, poi la circolazione con le ripercussioni per il traffico commerciale della chiusura della superstrada slovena H4 da domani, infine l'addio a Pippo Baudo, il suo legame con la regione. Con una complessa operazione è stato tratto in salvo un escursionista di Caneva di 45 anni che non aveva fatto rientro a casa dopo aver compiuto un anello di una trentina di chilometri attorno al Col Nudo. L'allarme era scattato nella prima serata. Le operazioni sono proseguite fino all'alba di oggi con 15 tecnici del soccorso alpino della Valcellina, l'elisoccorso regionale, la Guardia di Finanza, i carabinieri di Cimolais, la protezione civile, i vigili del fuoco con i droni e il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare di Poggio Renatico. Erano stati già preallertati il soccorso alpino veneto di Alpago e le unità cinofile. Ieri, mezz'ora dopo che la moglie dell'uomo aveva lanciato l'allarme, è stata ritrovata l'auto a Cellino di Sopra. Poi nel briefing è emerso che un soccorritore della stazione Valcellina non in turno aveva incontrato in cima col Nudo l'uomo mentre scendeva. Intanto la Guardia di Finanza è risalita all'ultimo aggancio del telefono sul versante clautano e non, come ipotizzato, su quello veneto. L'elisoccorso regionale ha iniziato la perlustrazione individuando il disperso poco prima delle 23 alle 2:30, poi l'arrivo dell'elicottero militare. L'escursionista si trovava sul fondo di una valle molto incassata con un torrente con pareti ai lati, versanti ripidi e vegetazione. L'aerosoccorritore militare è stato verricellato 100 metri a valle del disperso, che è stato poi portato a bordo solo con una lieve ipotermia e che è rientrato autonomamente a casa. Ancora cronaca. Parla dal suo letto d'ospedale a Udine Mario De Ganis, titolare dell'osteria al Chanton di San Giovanni al Nattisone. Martedì è stato colpito a un occhio dal pugno di un ragazzino minorenne che insieme ad alcuni amici aveva abbandonato a terra biciclette e lattine davanti al suo locale. La vista all'occhio colpito inizialmente era sembrata perduta. Sentiamolo. Ho visto tante biciclette tutte per terra e dei ragazzi erano sulla terrazza e sono andato a chiedere cosa fanno tutti quelli vicini e lì mi è partito il pugno. Chi erano questi ragazzi? Lei li conosceva? E li conosco, li ho già visti, ecco, non bene ma so chi sono. Ma sono di San Giovanni, del circondario? Del circondario. Sono italiani quindi? Sì. Tutti minorenni? Sì. Un ragazzo solo le ha tirato il pugno? Sì, uno è il biondo, perché gli altri sono tutti castani. Una volta che le ha tirato il pugno, lei è caduto per terra, cosa è successo? Dopo, finito lì. Ah. Mi sono svegliato all'ospedale. Lei ha un messaggio da lanciare a questo ragazzino che l'ha colpita? Che vada alle forze dell'ordine e dica la verità. Perché altrimenti faccio andare io le forze dell'ordine. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Violenza tra giovani anche a Muggia. Fra le ipotesi dell'amministrazione, quella di un ingresso a pagamento al carnevale. L'ingresso a pagamento nell'area del Carnevale, in particolare quello invernale, è una delle ipotesi che sta valutando l'amministrazione di Muggia dopo i diversi episodi di liti e tafferugli che hanno caratterizzato il Carnevale estivo. Episodi che, sottolinea il sindaco Paolo Polidori, non hanno rovinato la festa, che si è svolta regolarmente anche grazie al servizio d'ordine, ma che al pari di altri eventi fa da richiamo a gruppi di persone che arrivano da fuori. Vengono da Trieste e non entrano neanche nel perimetro del carnevale, spiega il sindaco. Chi vive il carnevale l'ha vissuto comunque al di là di questi episodi. Ovvio la preoccupazione c'è da parte dell'amministrazione, ma verranno studiate le contromosse per il prossimo anno, già dal carnevale invernale. Non è nemmeno esclusa l'ipotesi di un carnevale, spiega ancora il sindaco, con l'ingresso a pagamento, per schermare la gente che arriva a Muggia solamente per fare confusione. Muggia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina adesso e parliamo di viabilità con le istruzioni per mezzi pesanti e leggeri in vista delle limitazioni sulla superstrada H4, importante arteria che collega Gorizia alla Slovenia. Chiusura a metà in Slovenia a partire da domani 18 agosto per la superstrada H4 che da Resderta, subito dopo lo svincolo dall'autostrada slovena A1 che porta a Lubiana, prosegue verso il confine di Gorizia fino in località Vertoiba dove sfocia nella A34 direzione Villesse. L'interdizione al traffico riguarderà infatti solo la viabilità verso l'Italia, non quella verso la Slovenia. Ciò significa che un autista che da Venezia volesse dirigersi verso Postumia e Lubiana potrà ancora percorrere la H4, ma non sarà possibile farlo in direzione contraria. Il traffico in questo caso sarà deviato. Quello ordinario verso Gorizia sarà dirottato su una strada regionale parallela. I mezzi pesanti, cioè pullman e veicoli per il trasporto merci superiori a 3,5 tonnellate, dovranno invece obbligatoriamente proseguire sull'autostrada slovena A1 fino al valico di Fernetti, dove si prevedono fino a 4.000 automezzi in più al giorno. Inevitabili dunque le ripercussioni sul traffico sia al confine, considerato che la sospensione degli accordi di Schengen costringe a controlli di polizia a campione sui tir che entrano nel nostro paese, sia sulla viabilità del raccordo autostradale triestino direzione Venezia e del primo tratto della A4 tra la barriera dell'Isert e Villesse. Autostrade Alto Adriatico, che resta in collegamento con la controparte slovena per monitorare i flussi di traffico in arrivo, fa sapere di essere pronta a gestire eventuali criticità e sottolinea di avere chiuso, per ridurre al minimo i disagi, il cantiere all'altezza di Redipuglia che riprenderà a ottobre. I lavori sull'H4 dureranno in tutto 7 mesi, una prima fase di 100 giorni da domani, dunque sino a fine novembre, e una seconda per 120 giorni a partire da fine luglio 2026. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo, il cielo è da sereno a nuvoloso sulla regione, alle 11 a Trieste c'erano 30 gradi, mare poco mosso con temperatura di 25 gradi, a Pordenone e Gorizia 29, a Udine 27 gradi, a Tolmezzo 24 sul Piancavallo e a Forni di Sopra 23 gradi, a Tarvisio 22, a Sappada 20, su Monte Zoncolano e Monte Lussari 18 gradi, sulla costa grado 31 gradi, Lignano 29, temperatura del mare 26 gradi, a grado 28 a Lignano. Ora le previsioni dell'ARPA, nuvolosità variabile con rovescio, temporali sparsi sulla zona montana, probabili nel pomeriggio, possibilmente locali anche sulle altre zone. Sulla costa soffierà borino, bora moderata, temperature massime in leggero calo. Domani cielo da poco nuvoloso a variabile, sulle prealpi carniche possibile qualche rovescio, sulla costa borino, bora moderata al mattino, brezza dal pomeriggio a Lignano e a grado, temperature in ulteriore lieve calo. E ora l'addio a Pippo Baudo, gigante della televisione italiana. Baudo ha fatto la storia del piccolo schermo e della Rai, che esprime il suo cordoglio per la scomparsa del conduttore che più volte era venuto in Friuli Venezia Giulia. L'ultima volta lo avevamo visto 6 anni fa come ospite d'onore a Pordenone Legge, un'accoglienza da star nella rassegna della letteratura per un maestro della televisione che tra le sue doti aveva appunto quella di saper veicolare contenuti più complessi anche al pubblico generalista del piccolo schermo. E Pippo Baudo allora ci aveva raccontato come la sua vocazione fosse nata a Trieste, una città con la quale il legame era rimasto fortissimo. Ero qui a Trieste perché ho partecipato come spettatore al ritorno di Trieste all'Italia, e accanto a me c'era un negozio di televisori. Trasmettevano le stesse immagini che i cameraman riprendevano in quel momento. Io ho guardato quei televisori e ho detto: io dentro quel televisore devo entrarci. Un legame che nasceva anche dall'amicizia con Lelio Luttazzi. Nel 2010 Pippo Baudo venne a Trieste per ricordare l'amico appena scomparso e preparare una puntata speciale di 900 a lui dedicata, e la città gli aveva assegnato il compito di fare da maestro di cerimonie nel 2001 in occasione della riapertura del Teatro Rossetti. Questa è una città magica. Io sono venuto qui molti anni fa, nel 65, con Noschese, proprio in questo teatro. E mi ricordo la gente, la folla. C'è una partecipazione vera del pubblico. Con Pippo Baudo se ne va un pezzo di cuore della TV, scrivono oggi l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, il direttore generale Roberto Sergio e il CDA della RAI. Ha reso la TV un fenomeno culturale senza mai cedere alla tentazione della volgarità. Andrea Verdani, GTGR Friuli Venezia Giulia. Ultimo giorno a Spilimbergo per la rievocazione storica della macia, l'antica unità di misura riprodotta su un pilastro in Piazza Duomo. Ultimo giorno della tradizionale rievocazione storica della macia di Spilimbergo. Siamo con il presidente della Proloco di Spilimbergo, Sergio De Clara. Un primo bilancio dell'iniziativa. Grazie e buongiorno a tutti. Noi come Proloco e come gruppo organizzatore siamo pienamente soddisfatti perché siamo stati fortunati con il tempo e con una bella partecipazione di visitatori e di appassionati del Medioevo che da tutto il Friuli e dal Nord-Est sicuramente, e anche una gran bella partecipazione dei cittadini e delle confraternite, delle borgate che ci hanno aiutato a organizzare questa manifestazione. Qual è la stima delle presenze in questi 4 giorni? Noi stiamo stimando una cifra complessiva che sarà di circa 15.000 persone, chiaramente distribuite equamente dunque la giornata, e la sera è veramente bello vedere tanta gente che gira rilassata per Spilimbergo. E allora oggi ultima giornata e ultima serata, che cosa aspettarci? Oltre ai consueti giochi e giocoleria e musici tutto il giorno, dalle 21 ci sarà la tradizionale sfilata del cero in cui le confraternite donano alla chiesa il cero, e in più ci sarà l'ultimo spettacolo di fuoco in Piazza del Duomo. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In regia Federico Comar e Riccardo Stoici, in redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.